Buongiorno a tutte e tutti, buon 25 aprile. Ci presento rapidamente, per chi non ci conoscesse, MDS è una campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l'occupazione e l'apartheid israeliana. È uno strumento di lotta non violento che promuove i diritti del popolo palestinese e la sua autodeterminazione, utilizzando strumenti quali il boicottaggio, sanzioni e la promozione di iniziative o campagne di disinvestimento per forzare Israele a rispettare i diritti umani e il diritto internazionale. Il 25 aprile anche per noi non è soltanto una ricorrenza e non è soltanto una giornata di festa. L'antifascismo per noi è un lavoro quotidiano che deve spingerci ogni giorno dalla parte della libertà e dalla parte dei diritti. Per noi oggi è davvero molto importante poter parlare di una delle storie di resistenza più lunghe, quella del popolo palestinese contro l'occupazione e l'apartheid sionista. Da più di 100 anni il popolo palestinese si trova sotto occupazione sionista. Israele ha imposto un vero e proprio stato di apartheid, di fatto legalizzando la discriminazione e la segregazione razziale dei palestinesi. Purtroppo ad oggi i territori della Cisgiordania sono ridotti a pochi fazzoletti di terra, isolati e separati tra di loro da un altissimo e grandissimo muro chiamato Muro dell'Apartheid. Per potersi spostare da una città all'altra della Palestina si devono superare basi militari, strade ad uso esclusivo degli israeliani e checkpoint che di fatto quello che fanno è negare la libertà di movimento, che mai come oggi dovremmo capire che importanza ha. A questo si aggiunge che la popolazione di Gaza, che è stremata da anni di assedio, continua i bombardamenti. Israele è l'unico stato che si definisce democrazia, mentre le sue stesse leggi hanno messo nero su bianco il fatto che i diritti fondamentali non sono gli stessi per tutti i cittadini. Ad oggi quasi la metà del popolo palestinese è profugo e si trova rifugiato in altri stati o in campi profughi, per di più vedendosi negato il diritto al ritorno. In questa situazione di emergenza da coronavirus, gli abusi e le discriminazioni si sono accentuate. La più evidente è la discriminazione sanitaria. I cittadini arabi, quindi quelli considerati di serie B, sono stati deliberatamente esclusi dai controlli sanitari e le informazioni sui provvedimenti di sicurezza che venivano via via varati sono stati diffusi esclusivamente in lingua ebraica. Palestinesi che si trovano a lavorare in Israele sono costretti a scegliere, sono stati messi di fronte a una scelta: o tenersi il posto di lavoro e quindi non poter più tornare a casa e rimanere per un tempo determinato in Israele, oppure poter rientrare a casa. Questo però ovviamente conseguiva la perdita del posto di lavoro, che spesso è l'unica fonte di reddito. Gaza è stata nuovamente bombardata dall'inizio dell'emergenza e proseguono indisturbati gli abusi sui civili o sugli attivisti o sui politici palestinesi. Le incursioni dell'esercito nei campi profughi continuano le demolizioni e gli ulivi continuano ad essere bruciati. Le condizioni dei prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane erano già prima ben più che insostenibili. Le umiliazioni, gli abusi e i pestaggi e anche la tortura sono purtroppo all'ordine del giorno. Ad oggi si contano 5.000 prigionieri politici, di cui peraltro 183 minori e 432 in detenzione amministrativa, quindi di fatto in detenzione arbitraria. Le condizioni di sovraffollamento e le condizioni igieniche nelle carceri non consentono ovviamente la tutela delle detenute e dei detenuti dal virus, e purtroppo ci sono già diversi casi di contagio da Covid-19. Questa emergenza sanitaria non è uguale per tutti, ma il peso più grande lo devono sempre sostenere gli ultimi e gli oppressi, che nella nostra società di oggi sono i migranti, le persone anziane oppure i giovani precari. Proprio questa situazione dovrebbe permetterci di capire che cosa vuol dire vivere in una società che criminalizza una parte della popolazione, la esclude dalla società, la ghettizza, la segrega e poi la reprime quando prova ad alzare la voce per difendersi. Oggi più che mai dovremmo sapere e ricordarci soprattutto che lottare e resistere contro un'occupazione militare e contro un sistema che ogni giorno fa propaganda razzista, che discrimina, che reprime e che incarcera chi non è d'accordo e chi prova ad opporsi. Tutto questo non è e non dovrà mai più essere un crimine. Vogliamo oggi festeggiare un 25 aprile che sia antifascista, ma anche antirazzista e anticolonialista. Questo passa anche dall'essere antisionista. Campi son pieni di mine, lune, le mine, la guerra finirà. E niente più cecchini sopra i tetti in città. E niente più cecchini sopra i tetti in città. E verrà quel dì di Marte, ho morto io, cava le scarpe. Marte le scarpe, lune, le mine, la guerra finirà. E niente più cecchini sopra i tetti in città. Sopra i tetti in città.

che non è mai troppo distruggere l'immagine, distruggere l'immagine. Sera tutti facevano la battitura in rivolta e qualcuno dei detenuti ha dato fuoco a dei materassi. Dopo un po' sono entrati degli agenti in antisommossa, hanno spento le luci e hanno picchiato tutti senza distinzioni. Ci sono dei ragazzi messi molto male. Una madre dice di aver sentito il figlio il 9 marzo e riporta un dettaglio significativo e inquietante. Mi ha detto che se gli fosse successo qualcosa, dovevo tener presente da subito che non si sarebbe trattato di suicidio e nemmeno di assunzione di metadone. Sentire mio figlio parlare di suicidio e metadone mi ha gelato il sangue. Mi ha appena chiamato, mi ha raccontato tutto, che l'hanno picchiato in tre e lo hanno spaccato, che ha le mani rotte, ma sta bene. Che hanno picchiato tutti perché nella confusione non hanno guardato chi c'era e chi non c'era, hanno spento le luci e hanno picchiato tutti. E sono dello stesso tenore le notizie provenienti dal carcere di Voghera. Eravamo spaventati in quanto avevano portato via 4 detenuti con la febbre. Abbiamo richiesto di poter effettuare il tampone per riscontrare un'eventuale positività al Covid-19. Si sono accaniti 4 agenti penitenziari su di me con i manganelli. Ho percosse su tutto il corpo. Altre testimonianze sui pestaggi e trasferimenti improvvisi e punitivi dopo i giorni delle rivolte arrivano dalle madri, mogli e sorelle dei detenuti del carcere di Foggia. Mio figlio mi ha riferito che a seguito delle manifestazioni di protesta messe in atto da parte di numerosi detenuti, impauriti a causa dell'allarme coronavirus, il giorno della rivolta sono entrati in 5 o 6, incappucciati e coi manganelli. I detenuti sono stati massacrati di botte, trasferiti a Viterbo con ciabatte e pigiama e tenuti in isolamento per i successivi 6-7 giorni. Un ex detenuto del carcere di Santa Maria Capua Vetere presenta la sua denuncia mostrando attraverso un video il suo corpo martoriato. 300 agenti della polizia penitenziaria sono entrati nelle celle a 3 o 4 per volta e hanno cominciato a riempirci di botte, calci, pugni, schiaffi, non capivamo più niente. Poi ci hanno trascinato fuori dalle celle e ci hanno colpito coi manganelli, dalla cella fino al passaggio e poi lungo le scale del primo e secondo piano, fino a piano terra. Sempre continuando a colpirci coi manganelli e prendendoci a calci. Poi di nuovo su per le scale per tornare alle nostre celle, primo piano e secondo piano, sempre coi manganelli sulla schiena, sulla testa, sulle mani, ovunque. E ci hanno fatto a pezzi. La situazione delle carceri italiane è esplosiva. Le ragioni sono note da sempre: sovraffollamento, violenza, condizioni igieniche di prevenzione e cura inadeguate, alle quali si aggiunge ora la pandemia da coronavirus. Chi ha la responsabilità della gestione dei detenuti non ha il diritto di trasformare le pene in condanna a morte. Chiediamo con forza la sospensione della pena per tutte le persone detenute ammalate ed anziane ed un provvedimento di amnistia che riduca sensibilmente la popolazione detenuta. Facciamo sentire la nostra voce, facciamo sentire alle persone detenute che non sono sole, che una condanna e la detenzione non possono coincidere con l'annullamento di tutti i diritti fondamentali della persona. Invitiamo tutti ad ascoltare e vedere le testimonianze complete arrivate dal carcere questo pomeriggio alle 18, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Associazione Bianca Guidetti Serra, e sulla pagina Facebook Pratello Resiste. Sozzi non lo siamo mai stati e vedeteci in questo tutti i difetti del mondo, ma per noi è solo la cosa che ci rende meno noiosi, o forse la scusa per fermarci da voi a mangiare. E porteremo vino da discount e un imbarazzante silenzio iniziale. Abbiamo pugni alzati e magliette rosse indossate su mutande e calzini sbagliati. Il sonno dell'ideologia genera nuovi pigiami. Ciao, sono Leo dei Marble House. Noi ringraziamo Radio Fujiko e la Piazza degli Indipendenti per l'occasione, perché il 25 aprile è il modo migliore per ricordare chi in passato ha dato la vita per la libertà, è anche un modo per sostenere chi ancora in giro per il mondo sta sacrificando la propria vita per la libertà. Grazie ancora, ciao. Buongiorno Radio Fukushima e buon 25 aprile da parte dei carrelli elevatori. Rimanete a casa, che fuori è un brutto mondo, mi raccomando. Noi siamo bloccati a Valona in un hotel perché il governo ci aveva assunto, diciamo, temporaneamente per una tournée di ringraziamento ai medici che sono arrivati in Italia per l'emergenza. Quindi adesso siamo in Albania, dovevamo andare dopo da Putin, poi a Cuba. Invece siamo rimasti qui bloccati in hotel, però tutto sommato la quarantena va bene anche qui in hotel. C'è chi si fa l'aerosol nella speranza di crescere in altezza, il chitarrista si infila le corde nel naso facendolo uscire dalle orecchie per partecipare a Scommettiamo Chi È, il cantante sta prendendo una seconda laurea col figlio di Bossi qui all'università privata albanese, il percussionista in mancanza del suo parkour si arrampica tra le scale di emergenza e balconi, si butta nella piscina, il tastierista cucina, ci trova anche un po' di fumo quando va al mercato che poi mettiamo nell'aerosol, insomma dai, ci divertiamo. Io ho la gamba ingessata e quindi perdo del tempo la mattina a decidere in che posizione sedermi sul bidet, però il resto va tutto bene. Mi raccomando, rimanete a casa, ci dispiace quest'anno di non festeggiare, mi raccomando, state a casa e buon ascolto coi carrelli. Mettete i tappi alle orecchie prima di sentire la nostra esibizione. Un abbraccio. Yeah. mi amerà. Ci gloria, non prendi l'occasione per darti da fare, per fare.